a ciascuno il suo, di Raffaella Calandra. La vita può cambiare, la cambierò. Crederci vuol dire aver fatto già un grande passo in avanti, in terre come la Calabria, dove certe regole si respirano più che l'aria, senza mai essere messe in discussione. Crederci, come aveva fatto Lea e come lei e altre donne, vuol dire dare un primo pesante colpo alla struttura stessa dei clan. Questa è la canzone per Lea, Lea Garofalo, collaboratrice di Giustizia, poi uccisa e sciolta nell'acido a Milano, ma potrebbe essere anche la canzone per Maria Concetta Cacciola, che aveva avuto il coraggio di staccarsi dal suo clan a Rosarno, iniziare a collaborare salvo poi finire suicida. O potrebbe essere ancora la canzone per Giuseppina Pesce, la prima donna di 'Ndrangheta a collaborare con i magistrati negli ultimi anni e quella che ce l'ha fatta, quella che sta andando avanti nonostante tutto e la decisione di sempre più donne delle cosche calabresi di cambiare la loro vita e certi schemi non a caso rappresenta per la 'Ndrangheta, come riporta la direzione investigativa antimafia in un suo recente rapporto, la principale preoccupazione in questo momento per i boss. Anche per questo, con le storie di queste donne e delle donne di Calabria, si è aperta quest'anno la seconda edizione di Trame, il Festival Antimafia di Lamezia, con tra le altre Angela Bubba, autrice di Malinati, e soprattutto con Alessandra Cerreti, sostituto procuratore della DDA di Reggio Calabria, colei che ha raccolto a verbale, per dirla con le sue stesse parole, il coraggio di queste donne. Una frase della disperazione non detta da un calabrese ma da un immigrato che lavorava appunto a Rosarno, nella quale appunto io mi sono immediatamente immedesimata. Quindi sì, io chiamo la Calabria terra dei morti. All'interno non ci si rende conto, non si è molto lucidi, se invece si va fuori dalla Calabria o alcuni comportamenti calabresi ce li fanno vedere altri, come in questo caso un cittadino o comunque un ragazzo che viene dal Marocco, c'è bisogno di questo secchio d'acqua in faccia che ci faccia rendere conto come le cose stanno. La dottoressa Alessandra Cerreti, magistrato alla direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria, che ha lavorato prima a Milano, siciliana, arriva a Reggio Calabria da Messina. Anche questa è una scelta controcorrente e direi di coraggiosa anche questa. Sono molto colpita dal fatto di vedere che in un universo molto chiuso, come quello della 'Ndrangheta, le poche rotture che ci sono state tra i pochissimi collaboratori di giustizia di 'Ndrangheta che si conoscono, ci siano così tante donne. In Calabria, nell'ultimo anno e mezzo, sta accadendo qualcosa di eccezionale. La collaborazione al femminile ne svela la rilevanza sociale, che poi è quella che più interessa in questa sede, perché il fenomeno della collaborazione al femminile ha un'importanza sociale e culturale devastante per la 'Ndrangheta, e ora vi spiegherò perché. La scelta di trasferirmi da giudice Milano alla procura di Reggio Calabria non l'ho vissuta come un atto coraggioso, ma come un atto doveroso. Doveroso perché da meridionale avevo sempre vissuto la mia esperienza lavorativa a Milano, che poi si è protratta per più di 15 anni, e con dei profondissimi sensi di colpa nei confronti della mia terra. Mi sono sempre detta, io tutto sommato ho sempre tra l'altro lavorato anche a Milano in settore di criminalità organizzata, quindi la mia è stata una decisione che ho vissuto esclusivamente in questa direzione, di cui sono molto, molto contenta, perché l'esperienza della Procura di Reggio Calabria è assolutamente eccezionale. I 4 anni, 3 passati insieme al procuratore Giuseppe Pignatone ne sono assoluta testimonianza. Di coraggio invece io ne ho raccolto durante la mia esperienza professionale, di coraggio di donne in particolare, perché ho avuto la fortuna e il privilegio di raccogliere la prima in assoluto esperienza di collaborazione al femminile, che è quella di Pesce Giuseppina, che è iniziata il 14 ottobre 2010, e poi quella più breve di Maria Concetta Cacciola. Il fenomeno delle collaborazioni già nel contesto mafioso-ndranghetista, lo sappiamo tutti, è un fenomeno recente, anche se non del tutto, perché non è vero che in passato non esistessero collaboratori di giustizia, ne sono esistiti pochi, ma ne sono esistiti. Ne sono esistiti e sono stati più o meno valorizzati, molto pochi rispetto a quelli che abbiamo poi ritrovato in Sicilia. Ma la collaborazione al femminile è invece un fenomeno eccezionale in Calabria. Si era vissuto in Sicilia in alcuni casi, ma perché diventa eccezionale in Calabria? Perché l'Ndrangheta, a differenza delle altre associazioni criminali di stampo mafioso, ha come unità di base la famiglia nucleare, cioè il legame di sangue, padre, madre, figlio, sorella, nipote, zio. Però bisogna stare anche attenti da questo punto di vista, perché si è creato un falso tabù su questo concetto, perché siamo sempre stati abituati ad ascoltare che proprio perché l'Ndrangheta si basa su vincoli di sangue così stretti, è invincibile, perché il vincolo di sangue non è superabile, quindi la collaborazione con l'autorità giudiziaria è molto difficile, ergo invincibilità dell'Ndrangheta. È assolutamente un falso mito. Sicuramente il legame di sangue rende più difficile la collaborazione, ma non impossibile. Gli ultimi 4 anni della Procura di Reggio Calabria dimostrano che la mia non è una affermazione peregrina, ma dimostrata dagli atti processuali. Ancora di più la collaborazione al femminile. Perché? Perché sinora in realtà il ruolo delle donne di 'Ndrangheta, e parlo con questo termine, intendo la donna che nasce, cresce e vive in un contesto mafioso, nell'ambito di una famiglia mafiosa, era stato visto un po' forse marginalmente. Si pensava, si è sempre stati convinti che la donna fosse semplicemente deputata a controllare il focolare domestico o al limite a favorire la latitanza di qualche familiare. Le ultime indagini invece hanno scoperto che il ruolo della donna all'interno dell'Ndrangheta è ben diverso, poiché la maggior parte delle volte è l'unico componente libero della famiglia, perché la maggior parte degli uomini sono o latitanti o detenuti. La donna si trasforma in uno strumento essenziale, cioè diventa il veicolo di comunicazioni fra i detenuti e coloro che sono stati in stato di libertà. Quindi diventa uno strumento eccezionale per garantire la prosecuzione della vita dell'associazione mafiosa. Porta le ambasciate dentro e fuori. In alcuni processi siamo anche riusciti ad evidenziare un altro ruolo fondamentale, la cassiera. Ecco lei che a casa propria riceve i proventi dell'attività illecita. Nell'ambito di questi ruoli si sviluppa la prima collaborazione al femminile, e ci tengo a dire che la prima si distingue nettamente dalla seconda, perché la seconda non è stata una vera e propria collaborazione, perché Maria Concetta Cacciola, quando bussa alla caserma dei carabinieri e chiede aiuto, non è un'indagata, né mai lo sarebbe stato, era una testimone di giustizia. Lei chiede aiuto perché teme per l'incolumità personale, quindi vede come unica alternativa di vita chiedere aiuto allo Stato. Qual è la caratteristica comune? La collaborazione al femminile compisce l'Ndrangheta 2 volte. Da un lato, come tutte le collaborazioni con l'autorità giudiziaria, è un riflettore dall'interno della cosca mafiosa. Dall'altro lato, offende profondamente l'onore della famiglia mafiosa di appartenenza, perché dimostra che ci si può ribellare a quella cultura maschilista alla quale soggiacciono le donne in questi contesti. Se la collaborazione è addirittura al femminile, questo aggrava la posizione, perché dimostra che il potere di quella cosca non è così forte neanche all'interno della famiglia. In un processo è emerso che quando è stata resa nota la collaborazione di una donna di 'Ndrangheta, la cosca avversaria ha festeggiato. Si sono riuniti e hanno festeggiato. Perché? Era ovviamente una cosa a loro favore, perché dimostrava che la cosca stava perdendo potere. Quindi perde potere dentro e perde potere fuori. È questo che rende la collaborazione al femminile molto pericolosa. La rende eccezionalmente dirompente, ed è questo che distingue la collaborazione di una donna da la collaborazione di un uomo, perché la forza propulsiva, e questo l'ho verificato nei casi di cui mi sono occupata, che spinge una donna a collaborare con l'autorità giudiziaria, quindi scavalcando, superando con enorme sofferenza interiore i propri legami affettivi fortissimi che si hanno magari col proprio padre, con la propria madre, con la propria sorella, con la quale fino a qualche mese prima magari si divideva la vita, quale può essere? Cioè, c'è solo un affetto che è superiore a questi legami affettivi, i figli, l'amore per i figli. Io mi sono sentita ripetere come un mantra: lo faccio per garantire ai miei figli un futuro migliore, un futuro diverso dal mio. Questo è il comune denominatore. Quindi questa forza propulsiva fortissima spezza qualsiasi altro legame affettivo, perché li supera. Non ci saranno minacce, non ci saranno pressioni, non ci saranno offerte di denaro che consentiranno di fare un passo indietro. L'amore per i figli, dunque, come leva potentissima verso la rottura e verso il cambiamento, ma l'amore per i figli anche come arma di ricatto usata da chi quel cambiamento lo combatte. Angela, dal giorno che sei entrata nella mia vita l'hai cambiata. Tutto è diventato più facile, più dolce, più vero. Tu non ti rendi conto cosa sei per me. Sei l'aria che respiro, sei la luce che mi fa strada in questa vita piena di ostacoli. Sei la forza che mi fa andare avanti giorno per giorno in queste quattro mura. Sei la mia fatina che ogni notte mi porta nel mondo dei sogni, dove tutto è magico. E tu col tuo sorriso mi guardi e mi dici: vieni mamma, che qui si sta bene. Verrò, amore mio, verrò da te e stretti stretti per mano non ci lasceremo più. Andremo incontro a una vita nuova, quella che da quando sei venuta al mondo hai dato a me, quella che ho sempre sognato io per te. Ti amo. Parole semplici, sentimenti profondi, ma valore ancora maggiore in questa poesia, visto che a scriverla è una donna che ha la terza media, che è passata attraverso il carcere e soprattutto attraverso la decisione di saltare il fosso, per dirla in gergo, rompere cioè con la sua famiglia di 'Ndrangheta, denunciare i suoi cari, collaborare con la giustizia alla ricerca di una nuova vita per sé e soprattutto per i suoi figli, come scrisse lei stessa in una lettera ai magistrati della Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria. Comporre questa poesia è Giuseppina Pesce, la prima donna di 'Ndrangheta a collaborare in questi ultimi anni, quella che ha aperto una breccia nel fenomeno che in questo momento, come nota la Direzione Investigativa Antimafia, rappresenta il peggior problema per la mafia calabrese. E non a caso, come risulta da più inchieste, quando una donna collabora, gli affiliati alla cosca avversa festeggiano, come racconta alla Lamezia al Festival Trame Alessandra Cerreti, il magistrato regino che ha accompagnato la collaborazione di queste donne. Io sono stata testimone di profonde lacerazioni interiori nell'affrontare questa scelta, anche perché si tratta di donne che sono intessute di una mentalità mafiosa, che non hanno mai avuto un'alternativa di vita. Cioè, voi immaginate che una bambina nasce in quel contesto, cresce in quel contesto, è abituata a vivere il carcere dei propri parenti come noi andiamo al supermercato a comprare la spesa, quindi come un fatto naturale, è abituata ed è educata a odiare le istituzioni dello Stato, a vedere i carabinieri e i poliziotti come nemici, quindi è imperniata di quella mentalità, non immagina una possibile alternativa di vita. In questo devo dire che ci ha aiutato, ed è uno strumento rivoluzionario anche questo, l'internet, perché internet è una finestra sul mondo reale e queste donne su internet vanno, perché sono donne della nostra età, sono ragazze. Considerate che Maria Concetta aveva 31 anni, stessa età di Giuseppina Pesce. Su internet vanno, si confrontano col mondo esterno, cominciano a capire che c'è dell'altro. E questo è sicuramente un elemento positivo per la loro crescita culturale, per superare le barriere e cominciare a pensare a una possibile alternativa di vita che può passare attraverso la collaborazione con l'autorità giudiziaria, come è accaduto in questi casi. Ed è emblematico che proprio attraverso il regime detentivo, perché poi mentre la signora Giuseppina Pesce ha collaborato da imputata, da detenuta, è tuttora detenuta, eccetera. La situazione di Maria Concetta Cacciola è completamente diversa, però è emblematico che entrambe avessero una relazione extraconiugale. Perché lo dico questo? Non perché si pensi che la collaborazione sia uno strumento per risolvere i loro problemi familiari o sentimentali, perché da qualche parte l'ho letto, tutt'altro. Tra l'altro la Cacciola era una relazione platonica via internet, quindi pensate come è tanta la costrizione in cui queste donne sono costrette a vivere che basta un contatto scritto via internet per suscitare il loro dei sentimenti, perché probabilmente per la prima volta vengono trattate da semplici donne e non da figlia di, perché la vita di queste donne, poi ve la riassumo schematicamente, 13 anni fanno la fuitina con ovviamente persone scelte o gradite dalla famiglia. In genere sono cresciute, cioè la donna è un investimento per la famiglia mafiosa. Quando nasce una bambina, quella è un prezioso tesoro per poter attraverso un futuro matrimonio rinsaldare alleanze tra cosche mafiose. Quindi la bambina viene cresciuta con questo obiettivo. Il maschietto viene cresciuto per fargli impugnare una pistola, la bambina per creare alleanze. Quindi a 13 anni, infatuate, non infatuate, se non infatuate rapite e violentate, perché questo è lo strumento che è stato accertato in molti processi, rapite dal boss di turno che era stato, che viene rifiutato, insieme a 4 sgherri armati fino ai denti, portata in una stanza con gli sgherri che devono stare fuori per testimoniare che il rapporto sessuale ci sia stato, e una volta che c'è il marchio è cosa sua. E mai il padre se la riprenderebbe, perché dobbiamo aggiungere anche questo, che mai il padre se la riprenderebbe. Quindi 13 anni, 14 anni prima gravidanza e via dicendo. Comunque dal boss di turno vengono scelte in quanto figlie di. Quindi il primo contatto con l'esterno, il primo contatto con un uomo che non sa magari neanche chi sia l'interlocutrice reale su Facebook e crea un rapporto umano vero, le fa andare in disibilio. Ma il ricorso alla collaborazione giudiziaria non è per soddisfare le esigenze personali, ma per l'assoluta consapevolezza, e questo mi è stato ripetuto da entrambe, che al tradimento di una donna corrisponde la morte. La morte. La legge mafiosa, e me l'hanno ripetuta entrambe, è questa. Ma l'assurdo non è solo questo, che già basterebbe nel 2012 a fare sgranare gli occhi a tutti, ma è l'accettazione di questa legge da loro stesse. Cioè quando mi hanno riferito di questa legge, loro stesse quasi dicevano, beh, però me lo merito, effettivamente ho tradito. Allora io sgranando gli occhi ho detto, scusi, ma perché? Se tradisce suo marito, ma che c'entra? Ma lui è uomo. Io tradisco, io offendo, io devo morire, siccome non voglio morire, collaboro con l'autorità giudiziaria, semmai è questo il percorso. Quindi in contemporanea, alternativa di vita che lo Stato può offrire attraverso la collaborazione è desiderio di miglioramento della vita per i propri figli. Le due storie di Maria Concetta Cacciola e di Giuseppina Pesce sembrano le storie di uno specchio viste da due punti di vista diversi. Entrambe hanno la stessa età, tessuto di provenienza, contesto mafioso, stesso paese, hanno 3 figli con le stesse modalità, della stessa età, quindi accompagnavano a scuola i figli insieme, dall'asilo fino al liceo, si conoscevano, erano amiche, chiacchieravano insieme, ma il destino non avrebbe potuto dire che si sarebbero le loro storie incrociate così tanto in questi termini di eccezionalità di cui vi ho detto. Maria Concetta rappresenta colei che non ce l'ha fatta, purtroppo. Giusi rappresenta quella che ce l'ha fatta. E noi speriamo che questo diventi un esempio. La dottoressa Cerretti ha posto l'accento sull'esempio e ha parlato anche di rivoluzione sociale, quello che è successo con un'altra più antica rivoluzione sociale che è quella dell'antiracket. Ritengo che il rinnovamento e la lotta all'andrangheta possa passare attraverso la collaborazione al femminile, ed è per questo che l'andrangheta la teme così tanto, perché le donne, per come siamo strutturate interiormente e abituare a sopportare, rende le donne particolarmente forti, particolarmente combattive, ed è per questo che penso che la lotta all'andrangheta possa passare e la sconfitta dell'andrangheta possa passare attraverso le donne, ed è questo che rende la collaborazione al femminile terribilmente pericolosa per 'Ndrangheta. Questa poesia, che adesso vi leggo col consenso di colei che l'ha scritta, che anzi ha piacere che venga divulgata, lo dimostra, perché dimostra due cose. Racchiude in sé i segreti, le motivazioni che possono indurre una donna a collaborare, in più rappresenta una sorta di miracolo dello Stato, perché il punto di partenza è una donna di mafia che viene arrestata e si fa 2 anni di carcere. Il punto di arrivo è una donna che collabora con la giustizia e che è capace di tradurre le proprie emozioni e sentimenti in parole bellissime che adesso vi leggo. In mezzo ci sta il carcere. Ha tentato 2 volte il suicidio in carcere perché non sopportava la lontananza dei figli. L'antidoto non lo devono trovare solo i magistrati, perché gli arresti, i sequestri non bastano, ma occorre una rivoluzione culturale. Se ne devono andare loro, non noi. A ciascuno il suo, termina qui. Per riascoltare e scaricare questa come tutte le altre puntate, vi ricordo il sito radio24.it. Ci trovate anche sulla pagina Facebook di Storiacce e sul blog Storiacce. L'account di Twitter è Raf Calandra. Ciao a tutti.